Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di gerontocrazia, cioè del potere dei vecchi, degli anziani, diciamo così, e ne parliamo perché gerontocrazia è il titolo di un libro di Sandro Catani. Buonasera Catani. Buonasera. Sandro Catani è un manager, si occupa di consulenza aziendale nel campo delle retribuzioni, del management, è stato amministratore delegato di società di consulenza italiane e internazionali e ha scritto questo libro che è, diciamo così, un po' una critica alla società italiana, una critica alla società italiana in cui si inizia dicendo 400 persone influenzano l'economia italiana, l'80% dell'occupazione, il 95% della borsa di Milano. E sono tutti un po' anziani. Ecco, come mai è venuta questa critica alla società italiana? Sandro Catani. Come mai? Credo che sia sotto gli occhi di tutti che abbiamo un problema dell'elite del nostro paese. L'elite politica ha fatto un balzo indietro e i parlamentari adesso sono di 9 anni più giovani e il nostro primo ministro è sotto i 40 anni, ma anche gli altri segretari dei partiti sono quarantenni. E la burocrazia è sul banco degli imputati per i suoi problemi, anche essa è anziana. Certo. E soltanto la classe economica, la comunità degli affari, continua a criticare gli altri, ma ha sicuramente una responsabilità sul nostro declino. Una ipotesi non peregrina è quello di attribuire all'anagrafe la responsabilità della mancanza di visione e di innovazione. Quindi il fatto che gli anziani abbiano posti di potere, probabilmente li hanno conseguiti anche con merito, però non vogliono lasciarli, è anche un modo, una motivazione, diciamo, del declino. Proprio il declino italiano è il primo capitolo del suo libro. Ma sicuramente intanto sono persone, come dire, in generale che hanno ben meritato, concordo. Naturalmente di fronte ai fatti che stiamo leggendo abbiamo sempre più dubbi, ma in generale sono persone che hanno ben meritato. L'unico problema è che non si vogliono muovere e non passano il testimone, non stanno preparando una classe dirigente verso il futuro. Questo mi pare che sia il nostro problema. Tra l'altro spesso gli manca la possibilità di fare quello che in Inghilterra si chiama uscire con eleganza, perché la successione, certo, è qualcosa che dovrebbe conciliare le generazioni. Ecco, un altro capitolo dice: i manager non sono più pop, non sono più non solo popolari, ma forse non hanno più la grinta, la capacità, l'inventiva, la creatività che hanno invece le giovani generazioni. Però ecco, lei sottolinea spesso, bisogna anche fare un po', mettere un po' sui due piatti della bilancia, da una parte l'esperienza, che comunque è un valore, dall'altra una certa capacità inventiva. Ecco, come realizzare questo equilibrio? Le persone anziane, quando parliamo di persone anziane, naturalmente tutto l'Occidente sta invecchiando, quindi certo, diciamo gli anziani che stanno sopra i 70 anni sono ancora persone con grande capacità intellettuale, grande possibilità di contributo. Se loro passassero o assumessero dei ruoli non esecutivi nelle aziende, e non stiamo parlando solo dei dirigenti, stiamo parlando degli imprenditori che spesso sono la prima generazione, sono nati negli anni 30 e sono bravissimi, hanno fondato le loro aziende. I banchieri sono da tempo sulle pagine dei giornali per essere una classe gerontocratica, ma ci sono anche gli avvocati d'affari, ci sono i consulenti, ci sono i sindacalisti. E anziani vuol dire anche che ci sono persone che stanno da 15-20 anni nello stesso posto. Il segretario della UIL è da 15 anni, certo, che è segretario confederale. Ecco, indubbiamente questa è la realtà, però la realtà dipende da una parte dalle regole e dall'altra dai comportamenti. In Italia è più una questione di regole o una questione di comportamenti? Io credo che di regole, certo, qualche regola in più stiamo scoprendo sui problemi, ahimè, della corruzione, forse sono utili, ma le regole dovrebbero essere accompagnate dai comportamenti. Credo che sia un problema culturale, che è una parola facile da dire, se è difficile da realizzare, ma sono i comportamenti soprattutto che dovrebbero cambiare. E ripeto, probabilmente la classe che è al potere oggi si è formata dopo la guerra e ha rimosso la vecchia classe dirigente. Per adesso sta funzionando da tappo per una classe nuova, pochissimi sono nati dopo gli anni 70 della classe dirigente importante che io ho mappato, mentre più del 50% è nata prima degli anni 40. Ecco, ma e c'è anche un problema retributivo, un problema di disuguaglianze sul fronte retributivo. Questi manager hanno anche delle retribuzioni molto elevate che accentuano in fondo anche quelle disuguaglianze che sono uno degli elementi di difficoltà e di crisi all'interno di un paese. Anche in questo, l'Italia certamente è in buona compagnia, ci sono forse in altri paesi ancora eccessi ancora maggiori, ma anche questo delle retribuzioni un elemento critico per l'Italia? In realtà noi siamo nella media, forse anzi abbiamo il pericolo della mediocrazia, e naturalmente io corro il rischio di generalizzare perché ci sono manager straordinari che lavorano sui mercati internazionali e si guadagnano quello che ricevono, ma in generale il sistema premia più la stabilità, la relazione, non a caso ci chiamiamo capitalismo relazionale. In questi casi anche guadagnare cifre non straordinarie in America ma importanti in Italia, diciamo 1 milione per capire l'uditorio, è eccezionale. La storia dei 240.000 euro fissato dal primo ministro con un atto veloce e decisionista probabilmente non è una regola per il futuro, ma nel breve, durante la crisi, è un segno che i manager pubblici soprattutto devono dare il loro esempio. E d'altra parte, se non andasse bene sarebbero già dimessi, avrebbero lasciato. Certo. Evidentemente non hanno questo grande mercato. Ecco, lei appunto parla di capitalismo relazionale, a un certo punto del libro dice in fondo questo è un ossimoro, perché se c'è il vero capitalismo è contrario al fatto che ci sia delle relazioni che motivano poi dei comportamenti. Quindi questo capitalismo relazionale crea in fondo in Italia una realtà un po' diversa da quella degli altri paesi, che rende più difficile anche affrontare temi come questo, quello del rinnovo della classe dirigente, e direi soprattutto quello della formazione di una nuova classe dirigente, perché poi non è importante solo l'anagrafe, è importante anche i contenuti che una persona deve portare all'interno delle aziende oltre che nella politica. Sì, credo che le relazioni sono sotto gli occhi di tutti e la stampa lo riporta. Spesso si presenta un nuovo manager incaricato più per le relazioni che possiede. Quando sono state fatte le candidature nei grandi enti, spesso i suoi colleghi, bisogna dirlo, la stampa ha le sue responsabilità, parlavano più delle relazioni che non delle esperienze, dei meriti del CV. Sembra che il CV non conti molto in Italia. Gli inglesi dicono che conta chi conosci e non quello che conosci, e fanno un gioco facile di battute su di noi. Forse hanno un po' ragione. Io credo comunque che le cose stiano cambiando, stanno cambiando anche velocemente, naturalmente in mezzo a 1000 incertezze, quindi ci sono dei colpi in avanti e dei colpi indietro. Le nomine pubbliche credo che siano stati nei grandi enti come l'ENI, l'IRI, eccetera, siano stati Finmeccanica, siano stati dei buoni esempi di miglioramenti di innovazione. La partita però non si è ancora delineata. Quindi qualcosa sta cambiando in una realtà italiana che resta comunque una realtà che ha molti nodi da sciogliere. Ecco, viste secondo la logica del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, lei da consulente di impresa, comunque questo fatto di essere un po' arretrati sotto certi fronti offre anche maggiori potenzialità di crescita, pur se si riescono a imboccare le strade giuste per attuare questa crescita. Credo che la partita ce la giochiamo nelle aziende familiari, non nelle aziende quotate, che sono in realtà un pugno. Noi parliamo molto di aziende quotate, ma in realtà sono poche. Questa è una delle nostre caratteristiche. Le aziende familiari, le imprenditoriali, sono l'ossatura del nostro sistema. Una classe che li ha fatte, ha ben meritato, e naturalmente è invecchiata, stanno emergendo altre generazioni. Meglio avere dei manager che non avere dei giovani che non, probabilmente non hanno voglia di farlo. Certo. Se queste aziende si aprissero a rafforzassero il capitale anche senza andare in borsa, se investissero di più, il livello di innovazione, di competitività non passa soltanto attraverso il costo del lavoro, ma passa attraverso l'innovazione di prodotto, di processo. I nostri investimenti sono bassissimi. In information technology noi investiamo meno della metà di quanto investe l'Inghilterra, un terzo di quello che investe la Francia. Questi sono i dati ufficiali della Confindustria Digitale. Quindi noi potremmo fare veramente, come dice lei, un balzo in avanti se lavorassimo su questi due, tre rubinetti: gli investimenti, il rafforzamento del capitale, lo svecchiamento della mente dirigente delle imprese, soprattutto, ripeto, delle aziende familiari, che corre il rischio altrimenti di essere vendute, perché certo, in mancanza di meglio la famiglia se la vende e mette un po' di soldini da parte e si costruisce un patrimonio immobiliare. E si vive più di rendita che non di produzione. Certo. Ecco, proprio il capitolo dedicato alle aziende familiari si intitola L'azienda familiare tra meritocrazia e nepotismo. Ecco, la meritocrazia viene spesso evocata all'interno della realtà italiana, ma viene evocata forse perché non c'è, più perché c'è. E anche la meritocrazia andrebbe riscoperta, ma anche qui è difficile poi trovare il metodo per un vero premio alla meritocrazia. Ma io trovo anche qui, per giocare sui paradossi, naturalmente stiamo estremizzando i ragionamenti, ma non c'è dubbio che la meritocrazia, che è stata la molla con cui dopo la guerra molti imprenditori hanno creato le loro imprese, e loro hanno meritato, questa è una cosa eccellente, si è visto, hanno dedicato la notte, lavoravano 365 giorni all'anno, loro e la loro famiglia, dopodiché lasciano la loro impresa ai figli o ai nipoti, e naturalmente lì c'è molto meno meritocrazia. Certo. Per definizione, è lì il nepotismo, che non è una parola brutta, è stata inventata dentro la Chiesa Cattolica, e c'era il cardinale nepote, è un meccanismo per aiutare l'anziano, che non si fida degli altri, ad avere un congiunto che lo rassicura e che ha delle competenze, non è necessariamente il migliore. Questo è uno dei problemi che noi abbiamo. Ecco, indubbiamente, quindi un nepotismo che si riflette anche al di là dei contenuti e dei meriti, già mettere in risalto questi temi può essere uno spunto di riflessione per smuovere un paese. Lei dice nel sottotitolo del suo libro, il sistema economico che paralizza l'Italia. Dobbiamo cercare appunto di scuotere, anche mettendo in luce con molta franchezza quelli che sono i problemi. Io ringrazio Sandro Catani di essere stato con noi questa sera per presentare il suo libro Gerontocrazia, lo ricordo, il sistema economico che paralizza l'Italia, edito da Garzanti Libri, costa 14,90 euro e sono 180 pagine. Grazie a Sandro Catani. Grazie. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.